Cessato il tumulto della gente radunata tutto intorno in assemblea, Oloferne, comandante in capo dell'esercito di Assur, si rivolse ad Achior, in presenza di tutta quella folla di stranieri e a tutti i moabiti. «E chi sei, o Achior, tu e i mercenari di Efraim, per fare il profeta in mezzo a noi, come hai fatto oggi, e suggerire di non far guerra al popolo di Israele, perché il loro Dio farà loro da scudo? Chi è Dio all'infuori di Nabucodonosor? Egli invierà le sue forze e li sterminerà dalla faccia della terra, e il loro Dio non potrà salvarli. Ma noi, suoi servitori, li colpiremo come un solo uomo, giacché non potranno sostenere l'impeto dei nostri cavalli. Li bruceremo sul loro territorio, i loro monti saranno ebbri del loro sangue, i loro campi saranno ripieni dei loro cadaveri. Non potrà resistere la pianta dei loro piedi davanti a noi, ma saranno certamente annientati. Questo dice il re Nabucodonosor, il signore di tutta la terra. Egli infatti ha parlato, e le sue parole non cadranno a vuoto. Quanto a te, Achior, mercenario di Ammon, che hai proferito queste parole nel giorno della tua iniquità, a partire da questo giorno non vedrai più la mia faccia, fino a quando non mi sarò vendicato di questa razza che viene dall'Egitto. Allora il ferro del mio esercito e la moltitudine dei miei ministri ti trapasserà i fianchi e cadrai in mezzo ai loro morti, quando ritornerò a vederti. I miei servi per ora ti esporranno sulla montagna e ti lasceranno in una delle città di accesso e non perirai finché non sarai sterminato insieme ad essi. Se poi davvero speri in cuor tuo che non saranno presi, non tenere un'aria così abbattuta. Ho detto, nessuna delle mie parole cadrà a vuoto. Oloferne quindi ordinò ai suoi servi, che prestavano servizio nella tenda, di prendere Achior, di condurlo verso Betulia e di consegnarlo nelle mani degli israeliti. Così i suoi servi lo presero, lo condussero fuori dell'accampamento verso la pianura. Poi dalla pianura lo spinsero verso la montagna, finché giunsero alle sorgenti che erano sotto Betulia. Quando gli uomini della città li videro salire sulla cresta del monte, impugnarono le armi, uscirono dalla città dirigendosi verso la sommità della montagna, mentre tutti i frombolieri, dopo aver occupato la via d'accesso, lanciavano pietre sopra di loro. Questi, scendendo il monte a ridosso, legarono Achior, e dopo averlo gettato a terra alle falde del monte, lo abbandonarono e fecero ritorno al loro signore. Scesi dalla loro città, gli israeliti gli si accostarono e, slegatolo, lo condussero a Betulia e lo presentarono ai capi della loro città, che erano allora Ozia, figlio di Mica della tribù di Simeone, Cabri, figlio di Gotoniel, e Carmi, figlio di Melchiel. Convocarono tosto tutti gli anziani della città, tutti i loro giovani e le donne accorsero alla adunanza. Achior fu posto in mezzo a tutto il popolo e Ozia lo interrogò su ciò che era accaduto. In risposta, egli riferì loro le parole del consiglio di Oloferne e tutto il discorso che egli stesso aveva pronunciato in mezzo ai capi degli Assiri e con quanta insolenza Oloferne si era espresso contro il popolo di Israele. Allora il popolo si prostrò per adorare Dio ed elevarono suppliche dicendo: «Signore, Dio del cielo, guarda il loro smisurato orgoglio e abbi pietà della umiliazione della nostra stirpe. In questo giorno volgi uno sguardo benigno verso coloro che ti sono consacrati». Poi rincuorarono Achior e gli espressero la loro profonda compiacenza. Dopo l'adunanza, Ozia lo accolse nella sua casa e offrì un banchetto agli anziani. Per tutta quella notte invocarono il soccorso del Dio di Israele.